Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, se state passando l'estate anche a smanettare, ho il libro che fa per voi, si intitola Lasciate ogni speranza, voi che taggate, l'autore Alessandro Locatelli, Rizzoli, 250 pagine, 15 euro, titolo dantesco come avete sentito, per una rivisitazione social della Divina Commedia, ed è autore di questo libro un giovane, grande esperto e protagonista dei social media, dove è molto conosciuto anche per l'utilizzo che fa per farsi seguire dai suoi amici dei classici italiani. Qui il Dante che si smarrisce, un Francesco, uno studente di scuola superiore assolutamente normale, un po' distratto, al punto da perdere l'autobus per tornare a casa e ritrovarsi in una bassa nebbiosissima che gli farà perdere definitivamente la strada. Lo soccorrerà un Virgilio, naturalmente, che ha qui le fattezze niente meno che di Mark Zuckerberg, che lo introdurrà nell'inferno dei frequentatori dei social. L'inferno qui è diviso in logge, dove troviamo le varie categorie dei peccati nell'utilizzo dei social, e anche qui i peccatori sono sottoposti alla pena del contrappasso. Ne esce un libro ironico e godibile, ma molto efficace nel descrivere quelle patologie nell'utilizzo dei social network di cui ormai si parla sempre più apertamente, dalle quali forse alla fine della lettura del libro anche voi riuscirete a prendere le distanze. Ma sentiamo l'autore. Buonasera ad Alessandro Locatelli. Buonasera a tutti. Alessandro Locatelli, questo suo libro è anche un libro di galateo sui social? Beh, sotto certi aspetti sì, anche perché comunque diciamo contiene delle, se vogliamo chiamarle, delle regole su come dovrebbero essere utilizzati al social, appunto per usufruirne al meglio, quindi non solo come una sorta di svago, diciamo. Ecco, allora vediamo un po' alcuni dei peccati che lei elenca in questo libro e dei peccati dei taggatori. Innanzitutto gli ignavi, quelli che non sono neanche dentro l'inferno, quelli che non reagiscono. Qual è questa categoria? Perché è così grave il loro comportamento? Beh, diciamo che le ignavi sono quelle persone che magari si iscrivono ad un social network perché magari è il social network del momento, tutti sono iscritti, diciamo, seguono la massa, però non partecipano mai attivamente alla vita del social network. Quindi diciamo che sono come dei piccoli fantasmi che abitano questa sorta di limbo, diciamo. Ed è un po' una trasposizione di quello che succede anche, diciamo, nella società odierna. C'è tante persone che fanno parte di un qualcosa, però non ne partecipano attivamente, quindi è una cosa a mio avviso totalmente sbagliata, perché ognuno dovrebbe dare il massimo per migliorare ciò di cui fa parte, quindi è una sorta di peccato che comunque ha più sia nei social network ma soprattutto anche nella vita di tutti i giorni, diciamo. Quindi in questa forma di ignavia c'è non soltanto il silenzio ma anche il non reagire alle stupidità altrui. Esattamente, esattamente. Poi ci sono i lussuriosi, che è un po' la figura contraria, perché sono quelli che, come scrive lei, che trasformano il loro sentimento in puro esibizionismo, stanno sui social pur di starci. Esattamente, esattamente. Sono le persone, diciamo, che comunque fanno di tutto per ottenere l'attenzione della gente, spesso anche tramite azioni stupide. Appunto, il loro obiettivo è principalmente quello di avere le luci della ribalta su di loro, e pur di ottenere della notorietà o comunque ottenere visibilità sono disposti a tutto. Poi ci sono due categorie che mi stanno molto a cuore. La prima è quella dei politici twitteroli. I politici twitteroli, perché diciamo che sostanzialmente i politici hanno capito una cosa molto importante, cioè che sui social network si possono fare delle ottime campagne e quindi passano le loro giornate a twittare piuttosto che a scrivere post. Il problema qual è? Che pur di ottenere consensi sfociano spesso nel più becero populismo, diciamo, quindi dire un qualcosa giusto per far indignare le masse, magari anche un qualcosa di scorretto, però l'importante è l'indignazione, questa indignazione che poi magari andrà anche a sfociare in un futuro voto, no? Perché diciamo adesso è semplicemente un like, più avanti quel like o quel retweet diventerà un voto in futuro, quindi sono molto più attenti al giorno d'oggi anche al lato social, diciamo. E ci sono intere personalità politiche che basano appunto molto sulla loro campagna sui social, da Beppe Grillo passando adesso anche ad esempio a Matteo Salvini. Ecco, poi c'è un'altra categoria che mi sta molto a cuore, divisa poi in vari gruppi, che è quella dei violenti. I violenti, lei scrive a un certo punto, fa capire al suo eroe, al suo Dante, che fa capire una cosa fondamentale, come scrive nel libro: ciò che per noi è una semplice realtà dei fatti, per altri potrebbe essere un'alternativa. Questo per sottolineare il fatto che ci sono tante persone sui social che non accettano le idee altrui. No, questo è totalmente una cosa molto sbagliata, che si accentua di più su social network, perché comunque nella vita di tutti i giorni, diciamo, ci sono delle barriere, e nei social queste barriere vengono abbattute. Cioè, magari io nella vita di tutti i giorni non avrei problemi a dire secondo me questa è una cavolata, mentre invece sui social è un processo totalmente inverso, diciamo, e quindi spesso e volentieri si tende a cadere in questo errore, che secondo me è un errore madornale. Facendo violenza, lei scrive anche contro se stessi. Contro se stessi, perché appunto è la condivisione che porta ad un arricchimento personale. L'isolamento non porta a nessun miglioramento della persona, quindi io quando mi chiudo in questa mia fortezza non accetto altre opinioni, non accetto le altre idee, rimango tra virgolette nella mia ignoranza, quindi faccio un danno a me stesso. Quando magari condividendo i miei pensieri con altre persone potrei portare a un arricchimento sia mio, perché comunque il confronto porta sempre un arricchimento, sia comunque anche della altra persona con cui mi confronto. E quindi c'è anche una violenza contro Dio che sui social si identifica con la ragione. Infatti lei scrive: c'è bisogno, sembra quasi che il requisito per stare in rete sia ormai quello di spegnere il cervello prima di connettersi. Invece si può navigare anche senza spegnerlo, fidati, anzi sarebbe il caso di lasciarlo ben acceso. Ecco, è molto diffuso questo vizio, lei che frequenta i social più di me sicuramente. Uno dei problemi sociali è proprio appunto questo, che uno sembra che quando si connetta, cioè attivi il computer o lo smartphone e spenga contemporaneamente il cervello. Questo per esempio lo si può notare quando vengono condivise notizie false. Ci sono fior fior di siti che ogni giorno condividono notizie farlocche per generare il like, per generare la condivisione, anche perché i siti internet campano tra virgolette grazie alle visite, perché poi vi sono i banner, le pubblicità, e quindi loro guadagnano di quello, eppure di ottenere visite condividono notizie false. Se una persona non sta attenta a ciò che legge, potrebbe tranquillamente ritenere un qualcosa che è puramente frutto di fantasia e di invenzione una cosa vera, e spesso questo succede, cioè la condivisione di notizie false che poi devono essere smentite e devono essere appunto che vanno anche a danneggiare le persone, perché comunque sono notizie totalmente false. E infatti lei parla di credulo, di complottisti, di quelli che credono alle scie chimiche, eccetera, eccetera. Esatto, e qui lei colpisce anche l'informazione. Scrive: il giornalismo ha perso un po' la sua dignità, è normale perdere la fiducia nell'informazione ufficiale, o meglio ufficiosa, no? Si chiede retoricamente. Esattamente, esattamente. Se noi guardiamo per esempio le pagine social di molti giornali, anche di una certa elevatura, le notizie che vengono condivise maggiormente sono notizie che potremmo definire trash. Per esempio, clicca qui, guarda, è caduta la spallina di tot, di questa attrice, di quell'attore. Quindi notizie futili praticamente, che però attirano le masse. Quindi per un giornale online è quasi più importante condividere Belen che a cui cade la spallina, piuttosto che una notizia su ciò che è successo per esempio in una giornata politica odierna, o importante legge che stanno valutando, piuttosto che ciò che succede in Grecia e via dicendo, perché appunto non genera lo stesso interesse che genera la spallina di Belen che cade. Quindi il giornalismo sta perdendo un po' della sua dignità, anche perché io mi immagino comunque il giornalista che deve scrivere, che magari ha studiato per fare un'inchiesta e poi gli chiedono di fare una gallery con i 10 gattini più belli del web, perché quella gallery sicuramente andrà per la maggiore sui social rispetto a un articolo di cronaca. A un certo punto lei accenna a una prospettiva abbastanza terrificante, cioè che i social possano essere in futuro sottoposti a censura per mano dei potenti di tutto il mondo. La ritiene una prospettiva possibile questa? Da una parte la ritengo un qualcosa di possibile, perché comunque sempre più spesso adesso i social network vengono messi sotto l'occhio del ciclone, non sotto una lente di ingrandimento quando succede un qualcosa di importante, e dai social network comunque adesso sono sempre più controllati dai governi e non dai governi. Il problema dei social network è che sono comunque un po' come la sabbia, diciamo, no? Più tu tenti di stringerla tra le mani, più questa scivola. Quindi abbiamo visto per esempio durante la primavera araba che venivano censurati Twitter e Facebook e comunque trovavano altri mezzi per comunicare ciò che succedeva in quelle zone, tanto che le vere informazioni della primavera araba viaggiavano più sui social che sulla stampa istituzionale. E nonostante questi peccati che si possono commettere, nonostante questi problemi, lei però rimane positivo rispetto ai social, a un certo punto li definisce una piccola finestra sul mondo e vuole convincere Francesco che insomma conviene usarli e che sono comunque un progresso. È sì, così. I social network sono un grandissimo progresso per un semplice motivo: sui social network esiste quella che nella società è meritocrazia, cioè la meritocrazia. Se una persona vale, può emergere all'interno del mondo dei social network, e non è raro che succeda, per esempio giovani attori, giovani comici, giovani musicisti, giovani scrittori, perché comunque loro condividono ciò che creano con un pubblico e poi è il pubblico stesso a decidere se quel contenuto è meritevole o meno e mandare avanti quella persona. Quindi persone magari che hanno iniziato a fare determinati video, prima avevano 5 persone che li guardavano, adesso hanno 1 milione di persone che guardano giornalmente i loro video, e quindi diciamo sono una bellissima vetrina per tutti. E appunto possono spingere anche le persone a mettersi in gioco, dire: io ho questo talento lo voglio condividere con tutti. Anche perché spesso nella società magari tu hai un talento, però questo talento non viene valorizzato, o magari vengono premiate altre persone che non hanno il tuo stesso talento perché figli di o amici di. Mentre invece social network non esiste la raccomandazione, e questo porta comunque a un sistema più o meno meritocratico, diciamo. Lei comunica con i suoi coetanei attraverso i social, cercando di incuriosirli usando i classici della letteratura italiana, come ha fatto con questo libro. Qual è l'impatto di questo utilizzo? A me piace appunto utilizzare i classici, perché io sono una persona molto, che ama molto la letteratura, e spesso durante la carriera scolastica di uno studente cosa succede? Che lo studente tende ad odiare i classici per un semplice motivo, perché quando una cosa ti viene imposta da studiare, tu comunque diciamo prima o poi finisci con odiarla. Per esempio io quando ho studiato la Divina Commedia, a un certo punto ho iniziato ad odiarla per tutte le parafrasi, tutto ciò che voleva comunicare Dante. Poi l'ho ripresa in mano, l'ho riletta una volta finite le superiori per conto mio, e ho iniziato ad apprezzarne la vera bellezza. Quindi io credo che comunque quando magari scrivo alle persone che mi seguono, magari prendo un classico della letteratura e magari modifico anche qualcosa per renderlo un attimino più attuale e le persone che lo leggono lo apprezzano, per me è una grande vittoria, perché poi magari dopo aver letto quello che io ho scritto si vanno a prendere anche il libro del classico di cui ho parlato, e se lo leggono, se lo rileggono, iniziano ad apprezzare in tutta la sua bellezza. Quindi social e libri non sono incompatibili? No, non sono incompatibili, anzi sono molto più compatibili di quanto una persona possa credere. Certo, comunque è un argomento di nicchia, perché diciamolo chiaramente, in Italia leggere non piace, infatti i dati dicono che il 47% delle persone legga almeno un libro all'anno, quindi più della metà degli italiani non legge neanche un libro, e appunto questo qua secondo me è un dato drammatico, però allo stesso tempo bisogna puntare comunque a prendere questa metà che non legge, invogliarla a leggere, far capire loro che leggere porta ad un arricchimento, e poi comunque coltivare anche quel 47% di persone che legge almeno un libro, magari portarli a leggere 2-3 libri. E quando una persona per esempio mi scrive: ho letto il tuo libro, non avevo mai letto un libro prima e adesso ho iniziato a leggere anche altri libri, per me quella è la più grande vittoria, cioè avvicinare i giovani al mondo della lettura. Grazie ad Alessandro Locatelli, autore di Lasciate ogni speranza, voi che taggate. Buona grazie serata. Mille a voi, buona serata a tutti. Un Dante romanziere troviamo nel libro di Bianca Caravelli, che è una studiosa di Dante, divulgatrice di letteratura, che si intitola Le terzine perdute di Dante, pubblicato da Rizzoli, 350 pagine, 12 euro. Questo romanzo è ambientato nella Milano di oggi, dove uno studioso, Riccardo Donati, riporta alla luce, dopo secoli ovviamente, un misterioso passaggio di Dante a Parigi e il suo coinvolgimento in una guerra tra due ordini segreti. Il libro appartiene dunque al genere del thriller storico, che ha la sua chiave nella rilettura di alcuni versi di Dante che aprono orizzonti sconvolgenti, come spiegano per esempio queste righe. Beatrice sta dicendo a Dante di non fermarsi all'apparenza e di basare ciò che vede non sulle dimensioni, ma sulla virtù, direttamente dispensata da Dio. Così potrà comprendere, riflettendoci un po', che il primo cerchio angelico, pur essendo il più piccolo, ha tutta la virtù per poter muovere il più grande dei cerchi che ruotano intorno alla Terra, che lei chiama corporali e che a sua volta gli corrisponde quanto a virtù divina, perché è il più vicino a Dio. Allora, potremmo dire noi con linguaggio scientifico, Beatrice gli sta dicendo di non fermarsi alle apparenze della geometria euclidea, ma di pensare in altri termini, di fare mentalmente un salto di qualità. Quello che hanno compiuto gli scienziati del XX secolo, lasciando una bella eredità a quelli del XXI. Se noi facciamo corrispondere le sfere intorno alla Terra con le sfere angeliche intorno a Dio, otteniamo qualcosa di molto simile a quella che viene oggi chiamata ipersfera. Dunque Beatrice invita anche noi, in un certo senso, a riflettere bene sulle potenzialità straordinarie che racchiude un'idea di universo dallo spazio curvo, in cui è possibile, anzi è normale, che la sfera più piccola contenga la sfera più grande. A Riccardo si aprì la mente come se fosse stata illuminata a giorno da un faro. Gli sembrò di ricordare le immagini paradossali usate per descrivere l'universo di Einstein, in cui spazio e tempo si piegano in linee curve invece che rette, fino al punto che, se le dimensioni lo permettessero, un uomo che stendesse la mano davanti a sé riuscirebbe a toccare la propria nuca. Ma non poteva certo dire di aver capito tutto. Possibile che ora potesse ritrovare queste teorie di una scienza nuova, anche per i suoi tempi, proprio nei versi di Dante? Ma allora, Dante ne sapeva più di Einstein? O meglio, sapeva tutto questo prima di Einstein? Sospendiamo per un momento, ci risentiamo fra pochi minuti. Digital Radio Flash. Flash. Ciao, sono Emma. Ho sentito dire che la Digital Radio è multimediale. È vero? Certo. Con le trasmissioni in digitale, la radio acquista una nuova dimensione. Oltre all'audio in qualità perfetta, puoi ricevere sulla tua radio immagini, testi e video. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carrubba. Continuiamo con i nostri libri di viaggio e partiamo dall'Italia questa sera, in particolare dal Veneto, anzi da Padova, perché vi presento una guida particolarmente insolita di questa città. Si intitola Padova, seconda stella a destra, pubblicata da Bablé, 96 pagine, non ha indicazione di prezzo, potete richiedere il libro a info@bablé.it. Questa è una guida, dicevo, assolutamente insolita, perché è una guida astronomica, o meglio una guida a leggere tutti i riferimenti astronomici che sono presenti nei monumenti e nelle pitture di Padova, a partire naturalmente dalla celeberrima cometa dipinta da Giotto nella Cappella degli Scrovegni. E quindi qua troviamo una guida per scoprire questo itinerario, partendo da Galileo naturalmente, che a Padova tra il 1609 e il 1910 osservò col suo Perspicillum la volta celeste e scoprì in quell'occasione i movimenti degli astri che lo convinsero definitivamente che non era la Terra al centro dell'universo. Agli appassionati di bicicletta, invece, segnalo di Emiliano Gucci Sui pedali tra i filari, da Prato al Chianti e ritorno, pubblicato dalla Terza, 194 pagine, 12 euro. Questa non è una semplice guida turistica. Gucci è uno scrittore che ci dà una serie di indicazioni e di riflessioni su una terra che conosce bene e che percorre spesso in bicicletta, magari per cogliere le insormontabili differenze tra Firenze e Prato, che peraltro lasciano indicazioni. Differente l'autore. Chi pedala, scrive infatti, rispetta i confini ma non li teme mai, figuriamoci quelli che non esistono. Le terre che attraversa riservano anche delle sorprese, come il Macrolotto, la più estesa lottizzazione industriale realizzata in Italia negli anni Ottanta, ma che più spesso affascina e incanta, come quando si imbocca la discesa del Chianti classico da Fornarelle al Passo dei Pecorai, che così Gucci ci descrive. È la discesa più bella del mondo, una delle tante. Si va a 50 l'ora anche tirando i freni, ma è una strada buona, breve, ampia. Ed è ottimo l'asfalto, è pochissimo il traffico. E si è già fatto un bel po' su e giù e si ha voglia di respirare, e di meglio non si può. Di meglio intorno la mano dell'uomo non poteva, addomesticando una natura che bella lo è sempre di per sé, ma che qui raggiunge il sublime. una discesa in cui vorresti il grand'angolo e vedere anche dalle orecchie e dall'orifizio anale per non lasciarti sfuggire niente. C'è quel vento buono che ti spettina dentro e ti scombussola fuori, mentre ovunque è soltanto onde verdi, delicatezze. Una sosta d'obbligo in un punto a caso per rimirare e fotografare che non sarà mai abbastanza, mentre gli altri pedalatori faranno come te, chi un metro avanti e chi 20 indietro, tutti con il telefonino in mano a cercare di portarsi via un coriandolo. E se già si affaccia il pensiero di come sarà dura tornare a casa con il solleone che imperversa e i chilometri che si allungano, questi sono momenti in cui pensi: comunque vada, qualsiasi cosa accada, non dovrò rimpiangere mai la decisione di essere arrivato fin qui. Benvenuto nel Chianti Classico. Andiamo invece al mare con Due anni sull'oceano di Richard Henry Dana, Ricordi di un marinaio, tradotto da Franco Lucchesi per Castelvecchi, 334 pagine, 22 euro. L'autore era un grande appassionato del mare, figlio di un poeta britannico vissuto tra il 1815 e il 1882, tra l'altro fu animatore del partito che si batté contro la schiavitù, e qui ci racconta in questo libro i suoi due anni vissuti nel 1840, quindi molto giovane, a bordo del Pilgrim come marinaio. Allora era un giovane studente di giurisprudenza che decise di abbandonare temporaneamente i suoi studi. Dal redingote, dal berretto di seta e dai guanti di capretto dello studente di Harvard, passò, scrive, ai flosci calzoni di tela grezza, alla camicia a scacchi, al cappuccio di tela cerata da marinaio. E infatti, quando viene imbarcato, coloro che lo videro, scrive, capirono senza dubbio che era un uomo di terra dal momento in cui salì a bordo. E nel libro descrive appunto i due anni di questa sua traversata, nei quali ebbe delle esperienze particolari, come il passaggio a Capo Horn, un passaggio difficile, quasi leggendario, funestato da ghiacci, salutato come una benedizione ma descritto come una plaga di raro squallore. Un libro che ci porta invece sotto il mare è Il respiro degli abissi, un viaggio nel profondo di James Nestor, scrittore e giornalista americano, pubblicato da EDT, 294 pagine, 22 euro, tradotto da Anna Lovisolo. Ogni capitolo è segnato da un'attacca della superficie subacquea fino a scendere ai meno 10.900 metri, partendo da meno 18, e questo dà modo all'autore di raccontare il mondo dell'apnea. Il contatto con questo mondo era avvenuto nel 2011 in Grecia, a Kalamata, dove si svolgevano i campionati mondiali di apnea, al quale appunto partecipava come cronista l'autore. Il giornalista è incuriosito, comincia a fare ricerca sull'apnea, sul modo in cui il corpo umano reagisce, decide di applicarsi anche lui, parte appunto dalla meta più semplice, per così dire, quella dei meno 18, e si ripercorre la storia appunto dell'apnea. Si parla nel libro anche di un italiano, Raimondo Bucher, che nel 1949 decise di scendere a 30 metri senza dare ascolto ai medici che l'avvertivano che quell'immersione gli sarebbe stata fatale, e che dimostrò appunto che i limiti potevano essere superati. E poi scendi si arriva appunto a meno 10.900 metri, dove viene effettuata una spedizione scientifica, ovviamente non in apnea, che permette di cogliere nuovi aspetti sulla vita a quella profondità. Cambiamo emisfero, andiamo in Tibet con Sam Van Schaik, esperto di quella civiltà. Il libro si intitola Tibet, storia di un popolo e di una nazione, pubblicato da Longanesi, 448 pagine, 29,90 euro, tradotto da Filippo Brambilla. Il Tibet spesso è considerato semplicemente come una propaggine antagonista della Cina, ma, scrive Van Schaik, il Tibet è certamente molto più di ciò che è concesso comprendere dalle polemiche che conosciamo sui rapporti con la Cina, e la sua storia va ben al di là dei suoi rapporti con la Cina, scrive infatti l'autore, che vi è molto di più di quel che qualsiasi stereotipo lasci intendere. Questa storia parte dal 600, quando si comincia a parlare di Tibet, che nel 763 avrebbe addirittura fatto marciare le proprie armate nelle vie della capitale cinese, Xinjiang. Poi poi il Tibet diventa il grande centro del buddismo, che fa di Lhasa una città addirittura frenetica, fino al consolidamento della teocrazia che ebbe l'età dell'oro tra il 1315 e il 1543. È molto approfondita nel libro e l'analisi della situazione attuale, della situazione che si è creata dopo l'occupazione cinese. Per esempio, sentiamo dalle ultime pagine come sta evolvendo questa situazione e qual è l'apporto che gli intellettuali, alcuni intellettuali del Tibet, stanno dando all'evoluzione della situazione. I tibetani, sia in Tibet sia in esilio, sono forse ora più che mai consapevoli della propria identità culturale. Coloro che decidono di farsi monaci nel Tibet moderno non compiono una decisione facile, come lo era prima del 1959. La maggior parte di essi è impegnata in programmi di studio e sono sorte nuovamente delle comunità buddiste anche al di fuori dei monasteri. In Kham, dove esiste una lunga tradizione di fenomeni di questo tipo, un'ampia comunità di seri praticanti buddisti, sia monaci sia laici, si è raccolta negli anni 90 attorno a un insegnante carismatico di nome Kempo Jigme Puntsog. Essa era incentrata sull'insegnamento e sulla pratica buddista, ma le sue dimensioni spaventarono le autorità locali e nel 2001, dopo che Jigme Puntsog rifiutò di ridurre il numero dei suoi studenti, la maggior parte dell'accampamento fu distrutta e i praticanti furono dispersi. Da allora la comunità è rinata e altri grandi maestri hanno esteso la propria influenza, con molti studenti che continuano a raccogliersi attorno a loro. In altri casi, i tibetani hanno approfittato dell'allentarsi delle restrizioni per esplorare mezzi d'espressione più moderni. Sono stati pubblicati romanzi di autori locali, così come poesie e altre forme di letteratura, mentre accademici tibetani hanno studiato e scritto della propria cultura, mantenendo ampia libertà intellettuale, sino a che non entravano in conflitto con le affermazioni e le linee politiche del partito. Questi tibetani si trovano a negoziare uno spazio per se stessi nella Cina moderna, esplorando sino a che punto possono esprimere ed estendere le proprie identità culturali tibetane all'interno di quella nazionale cinese. Un'altra storia del Tibet è quella che scrive Chiara Bellini, che è un'esperta di questa materia, docente all'Università di Bologna, che ha scritto Nel paese delle nevi, storia culturale del Tibet dal VII al XXI secolo, è pubblicato da Einaudi, 404 pagine, 34 euro. L'autrice sottolinea che è forse improprio parlare di Tibet perché, come scrive lei stessa, in realtà è più giusto parlare di tanti Tibet, dei Tibet. La forza unificante di questi territori fu rappresentata certamente dal buddismo, ma naturalmente, aggiunge l'autrice, il Tibet e la sua civiltà non sono dissimili da tutte le altre del mondo, con guerre, violenze, lotte, dolori, tragedie, miserie. Il cliché, quindi, aggiungo io, di una terra dolce e amabile è appunto un cliché. Anche il Tibet è stato protagonista di pagine anche molto dure. E qui vediamo nel libro la storia dei vari periodi del Tibet e il libro è arricchito anche da molte illustrazioni. E nella conclusione di questo libro l'autrice riprende il tema appunto della fascinazione di tipo esoterico ed esotico, come lo chiama lei, che creò un mito che ancora oggi resiste e che alimenta delle autentiche patacche, per esempio le famose campane tibetane, che non sono affatto degli oggetti per favorire la meditazione ma sono delle semplici ciotole di origine nepalese che hanno avuto però grande fortuna. E quindi è opportuno conoscere e riflettere sull'autentica cultura del Tibet, quella cultura che per l'appunto il governo cinese è deciso a livellare, come scrive l'autrice. Il 6 di agosto abbiamo ricordato il 70° anniversario della bomba lanciata su Hiroshima. E Hiroshima si intitola il libro di John Hersey, sottotitolo La storia di sei sopravvissuti, pubblicato da Schirà, 158 pagine, 16 euro, tradotto da Annalisa Carena. Questo è un libro del 1946 di cui è autore un celebre giornalista e scrittore americano, corrispondente di guerra per Time and Life, morto nel 1993. Si parte di quella sconvolgente giornata attraverso l'esperienza di sei superstiti al lancio della prima bomba atomica, tra cui due donne e un tedesco che era un gesuita. Viene ricostruito il momento in cui la bombe esplose, i drammatici giorni successivi e anche gli anni successivi, che non furono meno difficili per alcuni dei superstiti. Uno dei sei, per esempio, un altro prete, questo metodista, fu molto mal visto dalle autorità americane quando decise di fare nel 1955 un giro di conferenze negli Stati Uniti per raccogliere denaro per delle cause umanitarie. E tre giorni dopo gli Stati Uniti lanciarono l'altra bomba atomica che distrusse Nagasaki, e nell'occasione di questo anniversario Gallucci pubblica nella collana dedicata agli adulti sotto il titolo Nagasaki quattro racconti di una famosa scrittrice giapponese considerata la Primo Levi del Giappone, perché sopravvisse proprio al bombardamento di Nagasaki e ha dedicato tutta la sua vita a raccontare quella tragedia. Si tratta di Kyoko Hayashi e il libro pubblicato appunto da Gallucci, 176 pagine, 15 ore e 50, ed è tradotto da Manuela Suriano. E qua abbiamo quattro racconti che affrontano vari temi legati al bombardamento e le sue conseguenze, sono seguiti poi da uno scritto dedicato appunto a questa edizione italiana, nel quale la Hayashi ricorda le navi italiane che vedeva da bambina a Shanghai, dove viveva, e conclude poi per sottolineare qual è stato il nemico interno col quale ha dovuto combattere tutta la vita, le contaminazioni, un nemico col quale l'autrice appunto convive da quell'agosto di 70 anni fa. E di Steve Schenkin vi segnalo L'Atomica, pubblicato da Castoro, 294 pagine, 15 euro e 50, tradotto da Nello Giuliano, che è un libro attuale alla luce dell'accordo con l'Iran. Infatti qui si parla della storia della bomba atomica a partire da Robert Oppenheimer e da Enrico Fermi. Naturalmente si parla dell'esplosione di Hiroshima, accompagnato dalla consapevolezza dell'equipaggio di quello che era successo e della china che il mondo aveva preso in quel momento. Dichiarò infatti il pilota dell'aereo, Paul Tibbets, di essere tristemente consapevole che il mondo non sarebbe stato più lo stesso. La guerra giunse, flagello della razza umana sin dall'alba dei tempi, ora portava con sé orrori incredibili. E da lì cominciò la corsa alla bomba atomica che i sovietici conquistarono già nel 1949, grazie anche al tradimento di alcuni esponenti tanto americani che inglesi. E a questo punto il confettino. Un libro dal titolo altrettanto esplosivo, ma certamente molto più soave nei contenuti, è Pum Pum di Davide Calì, illustrato da Maddalena Gerli, per Zoolibri 15 euro, dove un orgoglioso cacciatore d'orsi scoprirà che è meglio lasciar perdere e dedicarsi ad altri passatempi. E con questo ringrazio Guido Scotti, redazione, Gianmarco Ferrato in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.